Dip down, dip down, da di da da da do da da. Dip down, da di da da. Dip down, da di da da da do da. Your heart.